andiamo, sdraiati su quel divano, sì. Bella tipa questa sera, lo facciamo strano. Cosa tocchi con la mano, cosa senti di duro? Urliamo come scemi tipo Jessica e Vano. Ti palpo con la mano, facciamo frastuono. Preliminari che acquisiscono un tipo di suono. Il letto cigola ma sento il bisogno di farti urlare spingendo forte con orgoglio. Così questa nottata è il sesso puro, poi il buio. Perché azioni dovute anche se poi no non voglio. Senti il cappello avendo un briciolo di spiraglio. Ok, forse hai ragione, evitiamo sto figlio. Altrimenti che impiglio, come cazzo lo sbroglio. Se situazioni sono un periodo di controllo. Una serata per caso, mentre esco con vaso, osservo questa gente e le ragazze con vaso. E sono tutte uguali, per me anormali. Ragazze con bullying, donne stivali. E sali, in macchina con dei spacciatori. Bella ragazza, quelli scopano e ti buttano fuori. Svegliati e fa parte dei coglioni fuori. Sei ingenuo a proteggere, sta merda di valori. E basta con questo, riflesso perplesso. In una società di gente in cui non mi rispecchio. E basta con questo, riflesso perplesso. In una società di gente in cui non mi rispecchio. E ragiona ancora se tu puoi. Risolvi il problema che vuoi. Raccontami da adesso cosa hai. E spera nel successo che tu fai. E così già da tempo non ci penso più. E così già da tempo non mi fido più. Perciò adesso dimmi cosa pensi di fare. Dimmi se vuoi passeggiare in riva a sto mare. Voi donne dite sempre che è tutto normale. La mia ragazza mi ha lasciato manco due settimane. Si è messa con un altro, preferiva emigrare. Da me che ero un fallito, quasi morto di fame. E così un anno e mezzo è andata a puttane. Giustificato dal motivo che la stavo a passare. Ma è al contrario, la volevo solo aiutare. Ma è normale, guarda, lascia stare. Ste coppie oggigiorno durano poco. Egoismo che semina ovunque libero sfogo. E cura tutte quelle volte che sei geloso. Altrimenti ti abbandona in un velo pietoso. Ma impara a farti rispettare e dare. Per poi ricevere, imparare come fare per dire. Adesso basta, è anche ora per me di cambiare. E per questo prima o poi io ci devo riuscire. Con questo riflesso perplesso in una società di gente in cui non mi rispecchio. E basta con questo riflesso perplesso in una società di gente in cui non mi rispecchio. E ragiona ancora se tu puoi. Risolvi il problema che vuoi. Raccontami da adesso cosa hai. E spera nel successo che tu fai. E basta con questo riflesso perplesso in una società di gente in cui non mi rispecchio. E basta con questo riflesso perplesso in una società di gente in cui non mi rispecchio. E ragiona ancora se tu puoi. Risolvi il problema che vuoi. Raccontami da adesso cosa hai. E spera nel successo che tu fai.